In realtà non ho delle pretese ben definite. Ho i pensieri allineati su lastre di meteorite. Sono sempre stato strano senza che voi me lo dite. Lo scrivo per le fighe, se voglio la mia Afrodite glielo scrivo tra le righe. Tanto poi non lo capisce, col pensiero sulla morte non apprezzo le altre vite. Con il prezzo degli sforzi non ci disfi le valigie. Quando il male attecchisce poi perdi anche le facce amiche. La musica non paga ma almeno mi fa sfogare. Quando svuoto i bicchieri è perché gli riempio il locale. Ho le pare, più pare, in più pare, compare. Che tale finale fa male, pure se si conosceva il male. Non ti do più un dito, doti, zitto, godi. Dopo muori, dopo fuori. Dolori, dottori, attori, pitoni e pigmenti confusi coi fiori. But please don't leave me standing here. Dal principio del verbo, poi è arrivato il principe d'inverno che ti strappò le labbra con un bacio. Nessuno dentro al risveglio, ubriaco, marcio zoppico. Se resto fermo, freno l'ultimatum per l'eterno e tremo. Tagliando il filo che tiene distante il cielo, l'anima di chi mi muore rimane attaccata ai termos. Non fa quasi mai rumore, nemmeno nel salutarlo. Tutto va a rotoli ed io non riesco a notarlo. Ma salvo canto, stanco accanto il branco. Non trovo la pace, la luna è bianca, licantropo. Queste lacrime trasformano il viso. Io che non piango e non rido, resto col cuore diviso. Se da una stanza sul corso, danza sul dorso. Lo spettro d'inchiostro che spara salve sul morto. Ho bisogno di credere in qualche cosa. Quel principe dona per venere la sua corona. But please don't leave me standing here. È da quasi 100 anni che non vedo il suo viso. Il ricordo sbiadito perde il colore ma rimane inciso. Da me diviso per colpa di scelte, sciocchezze, scivole e macchiano la mia pelle. Il suo ventre armonioso, terra di fuoco, mi scioglie nella notte e mi avvolge a riposo. Goloso di calore, è pronta a morire, muore. Come neve al sole se ne andrà senza far rumore. Senza la minima traccia del passato, la freccia sfreccia ancora. Ma da allora sempre sbagliato, son viziato dal suo odore. Ma questo non ritorna, la spada è sempre fissata e nessuno l'ha mai tolta. Nessuno può provarci, tentarono in tanti. Scalai quella corteccia in fretta ma passarono anni. Ma non a caso ricordo come da quel ramo mi avesti. Per colpa di occhi lucenti caldi senza più vederti. Gonna keep on walking home.